Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini per una nuova puntata di Respiro, puntata nella quale il nostro ospite è l'architetto Renato Ferrari dello studio FZ di Milano. Ben ritrovato, benvenuto con noi. Grazie. Parliamo oggi di Milano Zero, un progetto che lei ci illustrerà nel dettaglio e che avrà tempi tra l'altro di realizzazione molto rapidi, quindi lo vedremo crescere sotto i nostri occhi. Lei mi diceva lo vedremo crescere anche su internet grazie a una finestra di dialogo che aprirete con i milanesi ma anche con tutti coloro che sono interessati a seguire questo progetto. Cominciamo però dall'ABC. Che cos'è Milano Zero? Perché lo definite poi il primo workspace a impatto zero? Sì, diciamo che Milano Zero è un progetto ambizioso ma anche molto concreto che si andrà a realizzare in Milano, sulla via una delle vie principali, diciamo, di accesso alla città, che è Viale Forlanini, ovvero la strada che connette direttamente l'aeroporto col centro di Milano. E che quindi molti di voi avranno visto una volta nella vita, probabilmente. È una strada abbastanza conosciuta, infatti. È una strada che ha una peculiarità in quanto, diciamo, non solo è un accesso primario alla città, ma è anche posizionata di fianco a un parco, che è il Parco Forlanini. Noi ci troviamo in un incrocio che sembra magico perché siamo proprio all'uscita di tutte le tangenziali che arrivano a Milano, ma siamo anche in prossimità della prevista metropolitana numero 4 ed è programmata una fermata proprio all'interno del nostro comparto, quindi questo ci dà la possibilità di renderci ancora più sostenibili nell'ambito della movimentazione degli spostamenti. Lei ha detto sostenibili perché questo è uno dei vostri principali obiettivi, però non abbiamo ancora detto che cosa sorgerà lungo questa strada e cosa c'è adesso che vedrà una completa trasformazione. Certo, allora si tratta della riconversione di un'area ex industriale e quindi si passerà da produzione di beni a produzione di servizi. È un'area che storicamente apparteneva alla famiglia Altieri e prima ancora alla famiglia Bordone, diciamo sempre facente capo della stessa proprietà, e che oggi risulta diciamo ottenuta tramite per via ereditaria. Per via ereditaria, e quindi diciamo la volontà è quella di andare a realizzare il primo workspace italiano con impatto zero, ovvero uno spazio dove si lavora, quindi destinato fondamentalmente a terziario, ma anche un po' di, diciamo, di servizi, un po' di commercio a sostegno di questo tipo di intervento. E questo in virtù dell'analisi del fatto che il mondo cambia, tutto si adegua a quello che sono le aspettative nuove del cambiamento dell'umanità e del mondo stesso, ma l'architettura, l'urbanistica e il diciamo lo sviluppo e la realizzazione delle città rimangono, come dire, ancorate a schemi che sono molto tradizionali, e quindi diciamo si è voluto assolutamente innovare attraverso la realizzazione di un comparto che viene trasformato in qualcosa di straordinariamente virtuoso, anche perché abbiamo la sensazione la necessità di pensare alle nuove generazioni con un senso di responsabilità che al momento non vediamo attuato in questo settore. Quindi l'idea è di prendere questi edifici preesistenti, recuperarli per quanto possibile, una parte recuperarla e renderli sostenibili. Attraverso quali interventi? Diciamo che ci siamo focalizzati su due aspetti fondamentali. Primo, realizzare edifici che siano assolutamente performanti come scatola, quindi il tema del caldo e del freddo viene gestito con grandi inerzie termiche, e perciò a questo punto, guardando poi la tecnologia, basta anche poca tecnologia, poca tecnica per poter raffrescare e condizionare agli stessi, quindi riducendo ulteriormente il consumo di energia per garantire il conforto ambientale. E questo è un primo passo. Come otteniamo questo risultato? Attraverso l'utilizzo appunto di energia rinnovabile, quindi zero emissioni, mediante la realizzazione di pannelli fotovoltaici per 6.250 metri quadrati che riescono a generare circa un megawatt di energia elettrica, le quali alimentano le pompe di calore che scaldano di poco l'acqua che noi dobbiamo pescare in sottosuolo, quindi nel terreno, e ci permette anche poi questa energia di poter alimentare anche degli utensili tipo condominiale, illuminazione delle vie pedonali, eccetera. Quindi il ciclo rimane assolutamente chiuso, non abbiamo bisogno di energia esterna e per questo e oltretutto produciamo qualcosa in più di energia. Ecco, questo è un risultato assolutamente interessante. Cioè oggi basta, c'è tecnica, c'è tecnologia per poter attuare queste cose, basta avere la volontà. E quindi l'edilizia tante volte resta indietro, insomma, diciamo, per non informazione o non volontà di cambiare un modo sì, di lavorare. Evidentemente c'è una cultura che deve essere ancora formata, le università sono molto avanti, i giovani sono molto attenti a queste Lei cose. Lei ha detto università, poi dopo mi torno sul tema dell'università perché volentieri. So che è una parte importante del vostro progetto. Sì, direi che per fare questo, per avere garanzia del successo, del risultato che non ci siamo prefissi, abbiamo chiesto anche l'ausilio di due enti esterni che sono sotto di livello, ovvero il Politecnico di Milano attraverso il BEST, che tra parentesi, utilizzando un programma di modellazione dell'energia, riesce a visualizzare diciamo, la reazione dell'edificio in virtù di questa tipologia di edificazione e di tecnologia inserita, e permette di vederlo sull'intero anno, testando appunto dove ci sono magari delle smagliature energetiche e lì poter intervenire. E poi l'altra cosa, l'altro ente che ci sta controllando, e questo per noi è veramente un fiore all'occhiello come quello del Politecnico, è la società internazionale LEED, che è una società di certificazione, riteniamo la migliore al mondo, la quale controlla ogni singolo passaggio da quello progettuale a quello realizzativo, e ci permetterà, se attuiamo tutte le indicazioni che noi assolutamente vogliamo attuare appunto, di raggiungere il top della categoria, ovvero arrivare ad essere definiti platinum. Quindi e su un'area di questo tipo non ha alcun tipo, non ci sono altre situazioni analoghe in tutto il territorio europeo, per quello che ci risulta, per quello che ci viene detto dalla stessa LEED. Quindi il progetto è assolutamente ambizioso. Poi, entrando nei dettagli, non vogliamo impattare ulteriormente qui, per ampliare un po', diciamo, la concezione di sostenibilità, non vogliamo impattare sulla rete fognaria, quindi al nostro interno depuriamo le acque per poi rimetterle, diciamo, in superficie purificate. Ma in generale, diciamo, se prima ho visto anche un progetto di mini auto elettriche per poi spostarsi all'interno dei vari edifici. Certo, questo è un upgrade che io reputo straordinario dal punto di vista del suo impatto, perché la nostra idea è quella di realizzare sì un parcheggio interrato per le macchine oggi tradizionali, ma in realtà l'idea è l'imperativo oggi è quello che tutto quello che è quota zero è pedonale, o al massimo, diciamo, ci si può spostare con dei mezzi che siano solamente elettrici. Ma questa è la cosa che io reputo estremamente interessante, così come le società automobilistiche ormai si sono adeguate, sono pronte a fare il salto, diciamo, di qualità dal punto di vista diciamo, dei motori, quindi passare al motore elettrico, e abbiamo degli esempi ormai di autonomie che sono anche, diciamo, importanti. Noi daremo la possibilità di, attraverso le colonnine elettriche, di ricaricare i mezzi propri, in modo tale da poter partire da casa. Io ho collaboratori che vengono da Como, da Bergamo, un po', diciamo, da tutta la regione, poter arrivare col mezzo elettrico, ricaricarsi e tornare a casa senza inquinare. Quindi un incentivo anche, è anche certo, una comodità, ecco, perché uno dice: mi compro l'auto elettrica, vado al lavoro e so che non rimarrò a piedi. Certo, ecco. Quindi da quando parto la mattina, quando torno la sera, ogni addetto potrà dire di non aver di essere stato sostenibile, di non aver impattato sul nostro territorio. E io credo che se qualcun altro, come dire, attivasse quest'idea, genereremmo in un attimo, dal punto di vista, diciamo, edilizio, una rete tale per cui veramente tutti gli spostamenti potrebbero essere a impatto zero. Quindi la nostra regione in un attimo risolverebbe il problema. Un gran problema. Senti, lei ha detto area ex industriale a Milano, questo ovviamente fa subito pensare a eventi di cronaca non certo fausti degli ultimi giorni. Sì. Qui invece, da un punto di vista delle bonifiche, ci sono state e ci sono problemi? Diciamo che fortunatamente quest'area è stata utilizzata dal punto di vista industriale per la realizzazione, diciamo negli anni 60 e 70, di un prodotto legato ai detersivi, quindi con impatti, diciamo, decisamente inferiori alle discariche di cui abbiamo sentito parlare. E perciò non rientriamo in quel tipo di problematica. Ma siccome questo tipo di attività fu trasferita negli anni 80, all'epoca, anche se non c'erano normative restrittive come quelle che abbiamo oggi, c'è stata la possibilità a suo tempo di poter dialogare con società straniere che invece erano molto più avanti, tedesche, olandesi, americani, tale per cui le bonifiche furono fatte all'epoca secondo parametri internazionali vigenti. Allora, oggi abbiamo fatto comunque tutta una serie di indagini e grazie a Dio il terreno risulta assolutamente a posto, salvo qualche serbatoio che andremo a togliere di gasolio, ma sono sciocchezze. Questo quindi vi consente di partire in tempo tempi brevi. Sì, in realtà il cantiere è già partito. Siamo partiti con delle ristrutturazioni, abbiamo voluto ottenere la cosa, diciamo, abbastanza low profile, perché lo stile un po' così milanese era quello di fare le cose fatte molto bene, farle con certezza, quindi avendo le sicurezze, diciamo, dei permessi, vi dicendo, quindi i permessi li abbiamo, le risorse economiche ci sono, la volontà di fare è altissima e c'è un team di lavoro, di professionisti assolutamente non solo affiatato ma estremamente entusiasta, che sta sostenendo la proprietà, che è la signora Nicoletta Altieri, in questo ambizioso progetto che andremo a realizzare con tempi molto brevi, perché in realtà anche le edilizie... Prevedete quali tempi? Ma premesso che abbiamo già iniziato da un po' di mesi, quindi alcuni edifici sono già stati ristrutturati e sono lì quindi da poter vedere e verificare con mano, e la ristrutturazione è stata fatta, diciamo, su quelli che rimangono fronte strada, a testimonianza della, diciamo, della nostra storia industriale, che non vogliamo affatto rinnegare. Diciamo che gli edifici si prevede siano finiti verso marzo-aprile del 2013, quindi... con tempi ragionevoli per l'edilizia e assolutamente in anticipo sui grandi appuntamenti di Milano, quali l'Expo, eccetera. Eh sì, perché c'è anche questo in vista, ovviamente. Mi faccio spendere una parola riguardo di Milano Zero, perché, diciamo, la filosofia che sta alla base di tutto questo ragionamento è proprio questo, l'aver constatato che siamo in una situazione, l'umanità veramente, una situazione ormai di... stiamo andando... al collasso, e riteniamo che in una situazione di gran caos la cosa migliore è fermarsi, spegnere tutto, stare al silenzio, ragionare un attimo e ripartire su basi nuove. Da qui l'idea di Milano Zero. Architetto, le chiedo in chiusura di ricordare agli ascoltatori l'esistenza del sito e sì, della possibilità poi via Facebook, che ormai è il mezzo, certo, di divulgazione e commento universale, di seguire questo, sì, certo, questo lavoro. Tra l'altro siamo rimasti, come dire, sconcertati quando abbiamo fatto fare un'analisi nel verificare a livello nazionale e internazionale quante operazioni immobiliari di un certo respiro hanno il sito internet, e purtroppo abbiamo verificato già sono pochissime, e quasi nessuna ha diciamo la possibilità di dialogare con la popolazione o comunque gli interessati attraverso, per esempio, il social network di Facebook. Quindi sito internet, e da lì ci si collega poi, sì, a Facebook. Sì, Milano Zero, chiaramente.it, oppure tramite Facebook Milano Zero sempre. Grazie all'architetto Renato Ferrari dello studio FZ, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.